Elba, 8 agosto 1967. Care Eleuterio, sono qui con il mare davanti che va e viene. Ogni volta che va non succede niente, ma ogni volta che viene mi bagna le gambe. Sono seduta sul bagnasciuga e io penso che il bagnasciuga è il titolo di testa del mare, se lo guardi dalla spiaggia. Se lo guardi dal mare, diventa il ten dell'acqua salata. E penso anche che sei uno stupido. Non si lanciano coltelli d'arrosto contro la propria moglie solo per via di un premio letterario. E sabato, quando verrai, riparleremo della faccenda. Ricordati di rifornire il frigo di tanto in tanto. Sempre tua. Roma, 9 agosto 1967. Inconfondibile sempre mia. Mi dispiace che quando il mare che hai davanti va non succede niente. Sarebbe molto bello se andando ti portasse con sé e tornando ti lasciasse là. Ma i desideri restano desideri. Ho fatto male a lanciare coltelli d'arrosto per via del premio letterario, anche se sei stata tu a organizzarlo. Ho fatto male, ma non avevo bombe a portata di mano. E sabato, quando tornerò, torneremo sull'argomento. Eleuterio. Ho scritto. Ho rifornito il frigo di scatolame vario, fagioli, frutta sciroppata, salmone, eccetera, ma adesso non so dove mettere le fettine di vitella. Consigliami. Elba, 10 agosto 1967. Caro Eleuterio, gatto, nota il distacco del vezzeggiativo che, pur restando nell'ambito dei felini, è molto generico. Sono qui con il mare davanti e penso alle cose cattive che mi hai detto lanciando i coltelli. Il sole splende sugli uomini e sull'acqua e io penso che il sole non è che un torrefattore d'eccezione che si diverte ad abbrustolire gli uomini. Chicchi di caffè di quella enorme sambuca che si chiama il mondo. Non si fa il diavolo a quattro per una piccola somma messa a disposizione del vincitore di un premio letterario, Eleuterio. Le fettine di vitella andrebbero nel frigo, ma se nel frigo c'è la frutta sciroppata, porta le fettine dalla signora del piano di sopra. Sempre tua. Roma, 11 agosto 1967. Inconcepibile sempre mia. Parli di piccolo premio in denaro e di premio letterario senza approfondire, omettendo volutamente i particolari. O te li sei dimenticati i particolari? Sabato ne riparleremo. Eleuterio, ho scritto, ho portato le fettine di vitella alla signora del piano di sopra. Ha detto che per gli involtini non vanno bene e che da me non ci si servirà più. Elba, 12 agosto 1967. Care Eleuterio, miciule! Il mare è immobile, fermo. E io penso che in certi momenti il mare è il viso dell'attrice Soraya quando esprime la gioia, o il dolore, o la noia. Ricordo tutto perfettamente, Eleuterio, nei minimi particolari. Stavamo aspettando di cenare e guardavamo oltre la grande vetrata e... Eleuterio, guarda. Ci sono due lune, una sul mare e una in cielo. Ah. Come ah? Non ti fanno pensare due lune, Eleuterio? A me sì. Gli innamorati cominciano con una luna tutta per loro, poi finiscono con le lune separate, come le stanze da letto. Invece di pensare alle lune, perché non pensi a farmi mangiare? Hai ragione, caro. Dobbiamo mangiare in fretta perché poi bisogna andare a consegnare il premio. Il premio? Che premio? Perché poi lo dobbiamo consegnare noi? Perché noi lo abbiamo istituito io, pensando che, compreso te, siamo tutta una cosa. Si tratta di un premio letterario. E noi, cioè tu, hai istituito un premio letterario? Sì, sì, Eleuterio, con i 2 milioni che avevo sul tuo libretto al portatore. Che bravo! Riesci a farti uscire il fumo della sigaretta dagli orecchi. Ah. Quale sigaretta? Sono 20 anni che non fumo. Allora stai calmo. Bisogna aiutare i giovani. E poi qui, in villeggiatura, se non ci si organizza ogni tanto qualche cosa, il tempo non passa mai. E tu hai organizzato... Sì, Eleuterio, sì. 2 milioni al vincitore. Ha vinto un poeta, uno che ha scritto... La mia casa è solo una casa, se tu non ci sei, ma quando ci sei diventa tutto il mondo. E questo è il vincitore. Bello, eh? Sì. E quelli che hanno perso che cosa hanno scritto? Senti, posa il libretto al portatore. E Lutero, ormai lo abbiamo promesso e lo consegneremo. E va bene, gli daremo il premio a patto che scriva qualche cosa di carino sulla tua tomba. Ma tu devi giustificare la tomba. Rimetti dentro gli occhi, Eleuterio, è pericoloso, ti possono cadere. E posi i coltelli d'arrosto. Io vado a dimostrare, signore e signori, 6 coltelli, 6 centi. No, non avrò la pretesa di colpire il cervello, sarebbe un bersaglio troppo minimo. Al cuore, 6 coltelli, 6 lanci, 6 centri. Concierge, aiuto, è impazzito, tenete l'uomo. Non fuggire, dammi la possibilità che aspetto da anni nella vita, ferma. Ferma un attimo e sorridi. Bambina, avevi ragione, è pazzo. Ricordo tutti i particolari. Per una sciocchezza hai fatto dell'albergo un circo equestre lanciando coltelli da tutte le parti e sei ripartito che non eri quasi ancora arrivato. Ma adesso stai tornando e io che sono una signora non ti ricorderò niente. Ti verrò incontro con il solito affettuoso sorriso e... Ciao. Bentornato, Eleuterio. Di là c'è il tipografo per il saldo di quelle 1000 copie di libro che ho comprato per incoraggiare il vincitore.